perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Onda su onda, il mare mi ha portato qui. Ritmi, canzoni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Una puntata un po' particolare di due di denari, perché c'è uno solo di denari. Buongiorno da Mauro Meazza. La canzone Onda su Onda è dedicata invece a Deborah, perché non sappiamo se in questa sua giornata di ferie ha deciso di accettare l'offerta di un ascoltatore che voleva regalarle uno yacht, e allora noi come augurio le abbiamo messo questa canzone iniziale. Non c'è invece molto da augurarsi per il primo tema che andremo a trattare, perché parliamo dello spesometro, cronaca di un pasticcio annunciato, verrebbe da dire. Ne parleremo tra pochissimo con Gilberto Gelosa, che è consigliere nazionale con delega alla fiscalità proprio per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Già ci state mandando anche dei messaggi SMS, il numero per SMS e WhatsApp naturalmente è sempre lo stesso, 349-238-6666. Se volete intervenire in diretta, 800-24-0024, oppure potete anche naturalmente scriverci, la nostra email è 2didenari@radio24.it. Un saluto a chi mi segue oggi e non ci segue da Facebook, ma Deborah tornerà subito domani, naturalmente non c'è nessun cambiamento di formazione. Vi anticipo anche che oggi parleremo dello smart working, che è una modalità di lavoro dipendente che si sta sempre più affermando, specialmente nelle grandi aziende. E poi le email in azienda, cosa è lecito fare, come è lecito usare le email e Facebook, è vero che si rischia di essere licenziati, qualcuno effettivamente ci ha rimesso il posto. Tutto questo a due di denari, ma allora partiamo subito con il primo tema, e cioè, ohimè, lo spesometro. Il disordine a casa mia, non c'è calore, non c'è armonia, il caos. Il caos, cantava Renato Zero, e credo che la canzone si addica molto a questa situazione dello spesometro. Che è lo spesometro? Adesso ce lo riassume il dottor Gilberto Gelosa, che è in collegamento con noi. Buongiorno, dottor Gelosa. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei, dottor Meazza. Allora, io do giusto qualche indicazione. Come avete potuto leggere già ieri sul nostro sito, ascoltare qui a Radio 24, e poi trovate oggi sul Sole 24 Ore, c'è stata l'immancabile proroga. Devo dire, lo temevamo un po', ne parlavamo anche la scorsa settimana con il collega Giovanni Parente. Il rischio della proroga c'era. Perché? Perché questa richiesta di comunicazione, che da annuale è diventata più invece serrata come tempi, ha provocato tutta una serie di pasticci. L'ultimo era una mancanza di privacy, cioè chiunque poteva entrare sostanzialmente, vedere i dati di tutti quanti. E allora c'è tempo fino al 5 di ottobre, ma in realtà non ci saranno sanzioni per chi spedirà entro il 13 di ottobre. Abbiamo guadagnato qualche giorno. Già subito però i dottori commercialisti hanno detto bene, ma maledettamente poco. È così, giusto, dottor Gelosa? Assolutamente sì, perché la situazione, per parafrasare quello che ha detto di con la musica sul caos, questa situazione era una canzone incocciante, era già tutto previsto. La richiesta di informazioni e dati da parte dell'Agenzia delle Entrate in un tempo così breve non poteva che generare il caos che effettivamente si è generato. Evidentemente individuare il problema che si è creato in questi giorni, quindi di violazione della privacy, dati che potevano essere letti un po' da tutti, era difficile prevederla in questa dimensione, ma già da alcuni giorni noi stavamo segnalando quotidianamente una ventina di criticità in un rapporto di corretto e leale lavoro collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Fino a quando è successo il patatrac che è sicuramente ingente. Anche questo lo abbiamo individuato, al di là di altri che poi si sono accodati, l'abbiamo individuato, l'abbiamo segnalato, però ha richiesto tempi più lunghi per poter essere riparato, e quindi il sito è rimasto chiuso da venerdì sino a questa mattina. Sembra che stamattina abbia ripreso la sua funzionalità normale, ovviando al problema, chiaramente questo ha ingenerato dei grossi problemi a tutti i contribuenti e a tutti gli intermediari, tra cui noi commercialisti. Tra l'altro ci scrive, e penso che sia uno degli errori che voi avevate segnalato, degli errori, delle difficoltà, perché poi queste trasmissioni web sono meravigliose finché non si tratta poi di vederle all'opera, cioè è sempre un po' più complicato di come sembra. Ci scrive un ascoltatore, ho un problema con le partite IVA cessate, perché continuano ad arrivarmi delle cose accettato con segnalazioni e quindi con una serie di errori. Era una delle cose che voi avevate segnalato all'agenzia, queste, dottor Gelosa? Beh, a memoria non mi ricordo, perché sicuramente sono state molte, mi sembra di sì, vado a memoria. Potrebbe essere, avevamo problemi sugli annullamenti, sì, cioè operazioni, cioè errori che aveva fatto il contribuente, l'intermediario doveva sistemare, richiedevano una procedura assolutamente complessa e non confacente nella fase di annullamento. L'altro problema era legato alla ricezione della consegna, quindi al rilascio delle ricevute, spedivano i file e si spediscono i file e non c'è una risposta in tempo reale, per cui l'attesa di sapere se il file è andato a buon fine oppure non è andato a buon fine era su un tempo non consono. Abbiamo individuato ad esempio delle operazioni che esistono nella realtà, dei casi marginali, ma che non sono stati trattati nell'evoluzione del software, quindi in sostanza si sono dimenticati. Cioè, quello che voglio dire, si è voluto fare un'operazione estremamente importante, estremamente complessa, dando tempi stretti per esigenze di bilancio, di gettito dello Stato, e era di fuori dalle capacità umane prevedere tutte le possibili criticità di un sistema come questo. Quindi si è voluto troppo e adesso si stanno raccogliendo dei risultati di complicazione. C'è amarezza anche perché voi effettivamente da subito, bisogna dire, il Consiglio Nazionale, le associazioni sindacali dei professionisti avevano detto: guardate che questo tipo di adempimento è impossibile da fare in questo periodo. E però c'è stata in realtà una prima proroga, ma poi si è deciso di andare avanti comunque. Lei dice per esigenze di gettito, perché effettivamente questo è un adempimento che serve a contrastare, a limitare, così ci è stato appunto presentato, l'evasione IVA. Però c'è un po' di amarezza da parte vostra. Sì. Amarezza da parte nostra, perché sono mesi che noi, essendo sul campo, essendo pratici di questi software e sapendo quello che ci sarebbe caduto sulle spalle, ci siamo permessi semplicemente di segnalare le possibili criticità e le difficoltà in un modo leale, trasparente, di collaborazione, dicendo che il sistema non ce l'avrebbe fatta. Siamo arrivati al dunque e il sistema non riesce, perché il numero dei dati, si parla di 3 miliardi e mezzo di dati con 50 miliardi di incroci, effettivamente è un qualcosa di non normale nella realtà della gestione dei software tra contribuenti, intermediari e l'Agenzia delle Entrate. Quindi 2 più 2 fa 4, sapevamo che ci sarebbe stato il problema e questo si è puntualmente verificato. Certo. Speriamo che di avere un maggiore ascolto sempre con toni collaborativi in futuro. Tra l'altro ci confermano proprio una cosa che ci stava segnalando lei, ci scrivono al 349-238-6666 e immagino un collega suo, dottor Gelosa, dice: ho una ricevuta, cioè mi mancano le ricevute della ricezione di una cosa inviata 4 giorni fa, quindi stiamo tutti in attesa. Confermo. Le faccio una domanda invece un po' capziosa, che è la seguente. Sì. Tutto questo aggravio, perché di aggravio si tratta per il lavoro del professionista, poi dovrà ricadere su noi clienti in qualche modo, ce lo ricaricherete, chiederete qualcosa di più, aggiornerete le vostre parcelle? La domanda era capziosa, gliel'ho detto. La domanda è capziosa, si tratta di un lavoro aggiuntivo, un lavoro molto importante, anche perché per alcune posizioni si tratta di ricostruire addirittura le anagrafiche, quindi di lavoro non avete neanche immaginazione di quanto possa essere. di conseguenza si dovrà discutere anche i contribuenti. È il solito onere che viene trasferito dallo Stato sul privato, ma la domanda che voglio fare anch'io capziosa è il costo che la comunità sosterrà per questo adempimento, che sia a carico dei contribuenti, che sia a carico dei commercialisti, che vantaggio porterà realmente? Questo dovrebbe essere misurato e dovrebbe essere reso noto, perché noi qualche dubbio ce l'abbiamo come categoria. Beh, questo lei sa che Raffaele Rizzardi sul Sole 24 Ore già da settimane insiste su questo punto. Noi abbiamo fatto un calcolo che in un mese più o meno, dalle nostre stime, per carità grossolane, c'è l'invio di qualcosa come 20 miliardi di dati, 19 miliardi, cioè un numero gigantesco, e la domanda che Raffaele Rizzardi e un po' tutti noi ci poniamo è: ma poi che se ne fanno? Cioè, servono effettivamente? Perché il dubbio viene quando uno impazzisce e continuano a scriverci. Il sito è accessibile teoricamente, mi scrive un commercialista da Cesena: da stamattina provo a controllare un mio file, ma non ottengo, come dire, la sperata risposta. Sì. Quindi voi dite, sarà poi utile veramente per contrastare i fenomeni di evasione? Noi qualche dubbio ce l'abbiamo che sia utile per contrastare i fenomeni di evasione. Sicuramente è uno strumento nuovo che va pesato. Sinceramente il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, la nostra categoria, i nostri ordini, con i loro presidenti, gli iscritti, hanno molto dubbi sulla capacità di vero contrasto all'evasione, se non l'indicazione di numeri che poi dovranno essere tutti verificati nel prosieguo da parte dell'amministrazione, contraddittorio con i contribuenti, perché un conto sono le anomalie, un conto sono le evasioni. Temo che questo sistema rivelerà più anomalie che evasioni. Certo, allora mi scuso, perché giustamente un'ascoltatrice mi dice: io non sono un commercialista, non ho capito di cosa state parlando. Allora glielo riassumiamo brevemente: è stato introdotto con una frequenza maggiore un obbligo di comunicare i dati delle fatture e delle ricevute ai fini IVA, comunicarli dai professionisti all'Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione, che abbiamo poi così colloquialmente definito spesometro, ha generato tutta una serie di di difficoltà nella trasmissione telematica, perché il tutto deve avvenire telematicamente, tant'è che da venerdì la cosa poi si è bloccata, adesso forse riparte oggi, ma già ci hanno segnalato riparte con delle difficoltà, dei buchi, insomma il sistema non funziona. Il fatto è che se non si invia per tempo si rischiano poi ovviamente le sanzioni. Le sanzioni sono state, per così dire, congelate fino al 13 di ottobre. C'è qualcosa da aggiungere, dottor Gelosa? Io ho riassunto in un modo un po' brutale. Dottor Postale ed io, che è il mio co-delegato alla fiscalità con l'ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale, siamo sul pezzo. Posso dire che noi riceviamo centinaia di mail e di WhatsApp tutti i giorni segnalando problemi e criticità. Noi auspichiamo che quelle che sono le nostre richieste di buonsenso, che non hanno ancora trovato pratica attuazione, ovvero sia innanzitutto una revisione dell'istituto da collocare in un processo migliorativo di quelle che sono richieste di dati da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel contingente, la scadenza del 5 ottobre è un qualcosa di cui ringraziamo anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate per aver provveduto quasi tempestivamente nell'ambito della sua autonomia, ma certamente non è sufficiente. Così come non è sufficiente il periodo di non sanzione fino al 13 ottobre, e quindi anche la possibilità di correggere errori senza sanzioni per un periodo più lungo. Teniamo presente che il grosso dell'attività parte da oggi, 26 di settembre, fino al 5 di ottobre, quindi le punte ci saranno da adesso in avanti e dovranno essere fronteggiate. Quindi certo, la nostra richiesta è un minimo di buon senso, ma qui deve intervenire il governo, il Ministero delle Finanze, di dare maggior tempo, maggior respiro, perché questo istituto possa essere portato avanti in maniera un po' più consona rispetto a quelle che sono le esigenze. Grazie. Se poi queste esigenze... Sì. Prego, prego. Se queste esigenze daranno risultati o no, lo vedremo. Ci piacerebbe avere una misura poi successiva. Allora, riassumo poi brevemente, anche a vantaggio, come dire, degli ascoltatori che non si occupano abitualmente di fisco, ma questo spesometro grava soprattutto sui professionisti che assistono le partite IVA, e in Italia sono milioni e milioni le partite IVA. Qualcuno mi scrive anche per gli artigiani, beh, le partite IVA in genere. Poi peraltro mi scrive un commercialista, non un collega del dottor Gelosa, dice: io ho inviato però i file per la mia azienda, ma i file inviati settimana scorsa sono spariti, o almeno così pare. Quindi insomma, questo sistema elettronico telematico sicuramente può risolvere tante cose, però quando si sovraccarica di una quantità di dati così ampia, evidentemente ha bisogno di tempo per andare a regime, e questo è il problema. A vantaggio di coloro che professionisti non sono, non si devono occupare, per loro fortuna, dello spesometro, dico, poi bisognerà vedere come e quanto il professionista a cui vi affidate sia riuscito a gestire la cosa, perché indubbiamente per lui è stato un aggravio. Io la ringrazio, dottor Gelosa, grazie delle indicazioni, grazie, speriamo che le cose migliorino. Anche a nome del Consiglio Nazionale. Buona giornata. Grazie. Arrivederci. E allora, passiamo al secondo tema, lo introduciamo perché poi naturalmente, come sempre, ci fermeremo per le borse, anche se non c'è Debora, l'aggiornamento sui mercati sarà costante, ma dobbiamo parlare adesso di smart working. Che cos'è lo smart working? Ma immagino che molti di coloro che ci ascoltano lo sappiano, è un po' meno esoterico dello spesometro, anche se, come avete potuto ascoltare, lo spesometro ha tutta una serie di ricadute abbastanza fastidiose per centinaia di migliaia di persone. Però lo smart working è invece il cosiddetto lavoro agile, significa posso svolgere la prestazione da casa mia, insomma da altrove, non ho bisogno materialmente di recarmi in azienda per svolgere la mia prestazione di lavoro dipendente. Ci aiuta su questo Aldo Bottini, che è un collaboratore del Sole 24 Ore. Ancora ieri avete potuto leggere appunto un suo contributo su come adeguare le intese che già c'erano alle nuove norme, perché c'è una nuova norma, è arrivata da giugno, è il cosiddetto Jobs Act degli autonomi, o statuto del lavoro autonomo, all'interno del quale ci sono le norme sullo smart working. Buongiorno dottor Bottini. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, questo smart working, che le chiedo, è una cosa che in qualche modo comporta dei vantaggi sicuramente per il dipendente, ma anche degli svantaggi, cioè si devono modificare le norme, gli accordi retributivi o qualcosa del genere? Ma allora, questa dobbiamo dire che non è un contratto di lavoro specifico, è una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, quindi il contratto di lavoro rimane il normale contratto di lavoro. Semplicemente si tratta di fare un accordo con il dipendente per lavorare in un modo diverso, diciamola così, in un modo diverso in cui non è più importante né il luogo dove si lavora né l'osservanza di un preciso orario di lavoro. In questo lo smart working si differenzia dal, perché vi ricordate probabilmente il vecchio telelavoro? Sì. No? Era una cosa diversa. Il telelavoro voleva dire: io faccio lo stesso lavoro che faccio con le stesse modalità, lo stesso lavoro che faccio in azienda, ma lo faccio a casa mia. E questo era il telelavoro. Qui è un discorso completamente diverso. È un discorso completamente diverso in cui appunto non c'è un vincolo, io posso lavorare in azienda ma posso lavorare anche fuori e non sono tenuto a osservare un preciso orario di lavoro, quindi è una forma di lavoro che è focalizzata su due elementi nuovi, che sono la fiducia nei confronti del lavoratore, perché è chiaro che io non lo vedo, non lo controllo, certo, da vicino come quando è in azienda, e quindi un minimo di investimento fiduciario è richiesto, e i risultati, quello che il focus è sul risultato dell'attività lavorativa, sugli obiettivi che io do al lavoratore e sulla valutazione dei risultati che mi porta. Benissimo, allora Avvocato Bottini si fermi perché ora abbiamo l'aggiornamento dai mercati, se ne occuperà per noi Adriana Fracchia, ma torniamo tra pochissimo a parlare di smart working. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... di denari. I'm working on a dream. I'm working on a dream. Allora, Bruce the Boss per Working on a Dream. Qui, anche qui un po' è un sogno questo smart working per alcuni, perché come ci spiegava l'avvocato Bottini, che è in collegamento con noi, questo smart working è innanzitutto un rapporto di fiducia che c'è tra il dipendente e l'azienda, con una libertà sostanziale del dipendente di operare dal luogo che preferisce e anche in orari, negli orari che preferisce. Ma questo comporta appunto un accordo, deve esserci qualcosa di scritto, chiunque può chiederlo. Come funziona esattamente l'attivazione di un smart worker? Allora, per attivare lo smart working la legge prescrive un accordo individuale, cioè quello che ci deve essere è un accordo individuale scritto tra il lavoratore e il datore di lavoro, in cui si dice che il lavoratore fornirà la sua prestazione in modalità smart working, o come dice la legge in traduzione italiana è lavoro agile. Sì. E vengono stabilite determinate condizioni e determinate regole. Quindi quello che ci deve essere sicuramente è un accordo individuale. Poi, nel corso di questi ultimi tempi, in molte grosse aziende sono stati fatti anche accordi collettivi prima della legge, se ne stanno facendo anche in questo momento. Ma l'accordo collettivo può esserci o non esserci, quello che è importante è che ci sia l'accordo individuale, e l'accordo individuale deve essere scritto bene, perché è, diciamo, quello che stabilisce le regole di ingaggio del lavoro agile. Quindi molto dettagliato. Molto dettagliato, in cui ci devono essere, secondo la legge, anche alcune previsioni. Per esempio, ci devono essere stabiliti i tempi di riposo del lavoratore, devono essere stabiliti, che per legge devono essere di almeno 11 ore giornaliere, deve essere prevista la disconnessione dagli strumenti, perché ovviamente il lavoro agile si fa con gli strumenti tecnologici, con i computer, con i tablet, con gli smartphone, con i collegamenti, con il collegamento internet. E allora la legge dice che bisogna stabilire anche i tempi di disconnessione, cioè quelli in cui il lavoratore può spegnere il telefono, spegnere il computer, non rispondere alle mail. Devono essere stabilite le forme dice la legge, di esercizio del potere direttivo e di controllo del lavoratore agile. Queste possono essere le più diverse. Per esempio, si può stabilire che il lavoratore lavora da dove vuole, lavora quando vuole. Tuttavia ci possono essere delle fasce orarie in cui si deve rendere disponibile per essere raggiunto telefonicamente o via chat. Sì. Questo è soltanto un esempio. Si può stabilire, per esempio, che ci sono dei giorni in cui deve essere necessariamente presente in azienda, perché per esempio c'è la riunione del suo team per organizzare il lavoro della settimana successiva. Tutte queste cose se ci devono essere, vanno scritte nell'accordo individuale. Ecco, Avvocato sì. Bottini, mi scusi se la interrompo, perché ci sono diverse domande che arrivano via messaggio, appunto, al nostro 349-238-6666, se ci volete telefonare 800-24-0024 per le chiamate in diretta. Alcuni si interrogano sulle tutele, cioè se per dire capitasse un infortunio al lavoratore agile, il tipo di tutela è il medesimo garantito al lavoratore per così dire non agile, cioè quello che svolge il lavoro nelle forme più tradizionali. E altri ci chiedono invece, insistono sulla possibilità di chiederlo se ci sono limiti di dimensione dell'azienda, cioè sotto un certo numero non si può chiedere o cose del genere. Allora, la risposta alla seconda domanda è no, non ci sono limiti. Naturalmente bisogna essere d'accordo, bisogna che siano d'accordo il lavoratore e il datore di lavoro. Perché il datore può sempre dire no, non possiamo consentirti lo smart working. Certo, bisogna essere d'accordo in due. Quindi il lavoratore non può pretenderlo se il datore di lavoro non è disponibile e viceversa, il datore di lavoro non lo può imporre se il lavoratore non è disponibile, non è interessato. Ci vuole necessariamente l'accordo di entrambe le parti. Per quanto riguarda salute e sicurezza è un tema molto delicato. Allora, intanto la legge prevede la copertura INAIL, quindi c'è la copertura INAIL per l'eventuale infortunio che il lavoratore agile può subire mentre sta lavorando fuori, se lavora in azienda è ovvio, mentre sta lavorando fuori. Sì. Ciò premesso, è chiaro che l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro si atteggia diversamente a seconda se uno lavora in azienda o se lavora fuori, per il semplice motivo che se lavoro in azienda io so dov'è, l'azienda è la mia e organizzo, sono tenuto a organizzare l'ambiente di lavoro in modo da renderlo sicuro. Nel lavoro agile io non so dove il lavoratore va a lavorare, può lavorare a casa sua, può lavorare in albergo, al mare o in montagna perché è in giro con i figli, può lavorare in spiaggia, può lavorare al parco, può lavorare al bar. È chiaro che quindi non si può pretendere che il datore di lavoro, che non sa neanche dove il lavoratore farà il suo lavoro, possa mettere in sicurezza i luoghi dove lavora. E allora qui la legge pone l'accento su due cose. Uno, l'informativa sui rischi specifici. Cioè io devo informare il lavoratore che il lavoro agile può comportare dei rischi, proprio perché si può svolgere in ambienti che magari non sono super sicuri. E poi l'obbligo di collaborazione del lavoratore. Questa è un po' una novità. Cioè, una volta che io il lavoratore l'ho informato, gli ho detto che deve stare attento a dove si mette a lavorare, che se lavora su un tavolino del bar sul marciapiede e poi viene investito da una moto, questo è uno dei possibili rischi a cui può andare incontro, ma il datore di lavoro non può fare niente per impedirlo, quindi è il lavoratore che deve cooperare per mettersi in condizione di sicurezza, però deve essere informato che ci sono dei rischi specifici. Ecco, per quanto riguarda un'altra domanda che ci è arrivata proprio ora, gli strumenti di lavoro dello smart working, giustamente lei diceva, abbiamo la necessità di avere un computer, uno smartphone, un qualcosa insomma che ci metta in condizione di svolgere questo tipo di lavoro da non nella sede aziendale. Questi strumenti sono a carico del lavoratore o deve fornirli il datore? E se sono a carico del lavoratore, qualcuno dice, ma è possibile detrarli, insomma averne un vantaggio fiscale, diciamo? Di norma gli strumenti sono assegnati dal datore di lavoro, che è quello che normalmente capita. Nulla vieta che nell'accordo individuale invece si pattuisca che il lavoratore utilizza un proprio strumento, se questo può rispondere all'interesse reciproco. Di norma quello che accade è che gli strumenti siano forniti dal datore di lavoro. Non è vietato che si pattuisca che uno invece usa i propri. Ci chiede un altro ascoltatore, l'argomento mi interessa perché io lavoro 80 km da casa, quindi tutti i giorni fa avanti e indietro, dice ma ci sono praticamente dei benefici economici? No, casomai potrebbe esserci però una revisione della retribuzione, che è l'altra domanda che sempre ci si fa in questo caso, cioè al ribasso intendo dire? Assolutamente. Assolutamente no, la legge questo lo prevede espressamente, il principio di parità di trattamento fra il lavoratore agile e il lavoratore che opera esclusivamente in azienda. Quindi il lavoratore agile non può essere penalizzato solo perché non si può far pagare la sua agilità. La sua agilità. Allora sentiamo invece Alessandro da Padova, perché ci dice: io faccio il telelavoro da 30 anni. Buongiorno Alessandro. Ah, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Ci dica Alessandro. Io sono un dirigente adesso, però lavoro per un'azienda farmaceutica. Sì. Da tantissimo tempo ho sempre fatto il telelavoro. Volevo solo intervenire per dirvi che effettivamente si può decidere l'orario di lavoro, ma in realtà quando si è connessi, quando si ha uno smartphone, quando si ha un computer, si lavora in continuazione. Cioè si lavora di sabato, di domenica, perché viene la mattina, appena ti svegli, la prima cosa che fai vai a vedere se hai delle email o non hai delle email, anche se potresti fare a meno di farlo. In realtà questi strumenti ti portano a avere questo. A poi dilatare i tempi di lavoro, certo. Esatto, perché poi di fatto è un fatto anche di curiosità, aspetti una mail magari. Certo. È vero, si lavora per obiettivi, è vero, si lavora solo esclusivamente per obiettivi, e ci deve essere un rapporto di fiducia. Questo è chiaro. Grazie. Però, Alessandro. Insisto, avvocato Bottini, ma la copertura da infortunio in itinere per lo smart worker. Insistono gli ascoltatori già in diverso. Ecco, sugli scritti. Infortuni in itinere c'è nella legge una disposizione specifica che è volta un po' a limitare la responsabilità dell'INAIL, un po' dico, sulla falsa riga di quello che accade oggi per infortuni in itinere, no? Già oggi l'infortunio in itinere è coperto, salvo che non le modalità del viaggio, dell'itinerario, siano abnormi, non rientrino nella regola. Allora, cosa dice la norma? La norma dice che c'è la copertura per il tragitto dal proprio abitazione fino al luogo scelto per svolgere il lavoro agile. Purché però la scelta del luogo sia ragionevole, risponda a criteri di ragionevolezza, oppure a esigenze organizzative, oppure ancora a esigenze di conciliazione vita-lavoro. Chiaro che se io voglio andare a fare telelavoro in un rifugio di montagna e per andarci faccio una ferrata, ecco, probabilmente l'INAIL avrebbe qualcosa da ridire. Certo. Grazie avvocato Bottini, con questo abbiamo, spero, risposto anche a Maurizio da Roma, l'avevamo anche in linea, ma adesso, come sanno bene gli ascoltatori di Due di Denari, è il momento del traffico. Due di Denari. Giorno avanti dal posto di lavoro, come tanti, l'ufficio personale mi ha beccato e anche dal lavoro mi ha cacciato. E allora perdonerete l'autocitazione, ovviamente qualcuno potrà aver riconosciuto i Chapter 11, ma molto più seria e affidabile di Chapter 11 è l'avvocato Marisa Marraffino, che saluto. Buongiorno avvocato Marraffino. Buongiorno a voi. Allora, avvocato, dobbiamo parlare. Abbiamo parlato di smart working, quindi tecniche per lavorare a distanza, non sul posto di lavoro. E adesso parliamo invece di un particolare problema, che è quello dell'utilizzo della email aziendale. Quindi dal posto di lavoro o non dalla sede dell'azienda, ma utilizzare i social, ad esempio, quando si è collegati col computer dell'azienda, utilizzare Facebook, utilizzare Twitter e così via, piuttosto che scrivere cose su Facebook o scrivere delle email che riguardano il proprio lavoro, e in modo magari con dei giudizi pesanti, può essere pericoloso. È così, giusto? Perché qualcuno è stato pure licenziato per aver scritto cose sgradevoli sul suo lavoro, magari su Facebook. Sì, esatto, può portare addirittura al licenziamento, quindi io raccomando a tutti di prestare attenzione. Non soltanto alla durata degli accessi, perché ci possono essere sanzioni di vario tipo, sia che possono dipendere dal numero di contatti, numero di mail personali mandati durante l'orario di lavoro, ma soprattutto le critiche che vengono rivolte al datore di lavoro. No, ma non pensiamo soltanto alle critiche diffamatorie, basta molto meno. Per esempio, basta anche scrivere la mattina quando si va al lavoro che com'è noioso il mio lavoro, cose ripetute di questo tipo, soprattutto se si ricopre un ruolo apicale, si può arrivare addirittura al licenziamento. Ci sono stati casi di dirigenti o responsabili del marketing che per commenti di questo tipo sono stati licenziati. E tra l'altro noi si ha un po' l'impressione, tutti quanti, voglio dire, quando stiamo su Facebook, anche noi in questo momento con due denari, anch'io sono su Facebook in questa diretta, di essere quasi in un posto privato, insomma, di fare due chiacchiere tra amici o insomma tra conoscenti affidabili al bar. Invece il giudizio dei giudici è molto molto più severo, insomma, se io scrivessi qualcosa di malevolo su Peter Bescapè in questo momento, questo potrebbe essere passibile di una sanzione nei miei confronti, è così? Abbiamo il lavoro, ma anche con i colleghi, quindi con chi lavora con noi, che può essere causa di sospensioni fino ad arrivare al licenziamento. Poi ovviamente dipende, ripeto, anche dal ruolo che si ricopre all'interno dell'azienda, però si può arrivare a sanzioni anche abbastanza gravi. È vero che poi d'altro canto anche il datore di lavoro, però, per monitorare le mail o i social network del dipendente deve prestare attenzione. Quindi non si può controllare, non c'è un occhio, un grande fratello che regna sui lavoratori. Però c'è da dire, per esempio, che qualche anno fa la Cassazione addirittura ha legittimato l'uso dei fake da parte del datore di lavoro. Quindi, volendo, un datore potrebbe mandare una richiesta di amicizia fittizia a un dipendente e controllare in questo modo la sua vita social, ecco. Ah, questo sarebbe legittimo, non sarebbe un comportamento. Questo perché è legittimo, sì. Perché la Corte invece dei diritti dell'uomo ha detto che, insomma, controllare le email del dipendente, sì, però non bisogna violare poi la sua privacy. Questo mi pareva di aver capito da una recente sentenza della Corte, della CEDU, della Corte dei diritti dell'uomo. Sì, sono due cose un po' diverse. Allora, per la Cassazione, questo è un precedente che ovviamente in Italia non è vincolante, quindi non escludo ci possa essere in futuro un precedente di segno opposto, però per la Cassazione un controllo tramite l'invio di un'amicizia non è così invasivo, tale da attivare per esempio tutti i meccanismi informativi a livello di regolamento europeo sulla privacy che sono necessari. Se io ad esempio do uno smartphone in uso a un dipendente, devo ovviamente informarlo sul fatto che quello smartphone può ad esempio consentirne la geolocalizzazione. La Cassazione ha detto se invece il datore di lavoro invia una richiesta d'amicizia, spacciandosi ad esempio per un utente qualsiasi, diverso, quindi un utente di fantasia, può in questo caso poi produrre l'eventuale documentazione in un giudizio. E questo è legittimo ed è lecito? Questo non viene considerato un comportamento così intrusivo tale da dover informare poi il dipendente, quindi è legittimo. Allora attenzione anche ad accettare le richieste d'amicizia di persone che ovviamente non si conoscono, non possono essere necessariamente malintenzionati, ma potrebbe essere anche il nostro datore di lavoro. Ecco, c'è un ascoltatore che ci chiede, ma posso fare trading dal computer di lavoro? Ma insomma, se non lo fai per lavoro, mi verrebbe da dire di no. Però sentiamo l'avvocato Marraffino cosa ne pensa. Esatto, non si può fare, però a favore dell'ascoltatore possiamo dire che è intervenuta la famosa sentenza che citavate prima della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che dice che il lavoratore deve essere informato se il datore compie degli accertamenti e quindi dei controlli sul proprio PC aziendale. Quindi devo dire che seguendo i riferimenti che ha dato la Corte di Giustizia Europea sarà un po' difficile per il datore di lavoro poi monitorare in maniera lecita, almeno nell'immediato, un dipendente, perché occorre informarlo degli strumenti che si usano. Non si possono leggere i contenuti delle mail, per esempio, ma soltanto il dato di traffico. E cosa fondamentale che ha stabilito la Corte europea in maniera molto chiara è che il lavoratore deve essere informato su tutti gli strumenti che l'azienda utilizza per controllarlo. Quindi per sapere se l'ascoltatore fa trading, diciamo che dovrebbe comunque averlo informato sul fatto che, per esempio, il monitoraggio di tutti i siti internet che vengono usati dal lavoratore viene considerato dalla giurisprudenza un controllo a distanza e quindi è un controllo invasivo e non può essere fatto dal datore di lavoro senza un accordo sindacale. Io parlo di monitoraggio massivo, quindi monitoraggio, sì, da remoto, a distanza di tutti i siti che il dipendente frequenta insomma durante l'orario di lavoro. Ma infatti, avvocato, questo è un po' anche il legame tra quello di cui parlavamo prima, cioè lo smart working, il lavoro agile, e il che si fa spesso con strumenti tecnologici, e poi l'uso che invece si può fare degli strumenti tecnologici assegnati dall'azienda. Quindi mi pare però di capire una cosa: deve esserci anche nel caso appunto dell'utilizzo di strumenti tecnologici, una chiarezza, una trasparenza da ambo le parti. Il datore deve dire se un tale strumento, ad esempio banalmente il GPS che consente di sapere dove sto grazie al telefono cellulare dell'azienda, beh, me lo devono dire che questo tipo di certo. strumento, quando mi viene assegnato, potrà servire sì. anche per capire dove sto svolgendo la mia prestazione lavorativa. Esatto, mi devono anche dire, per esempio, che fuori dall'orario di lavoro io posso disattivare questa funzione di geolocalizzazione in modo tale da non fornire all'azienda dati privati che riguardano i miei spostamenti. C'è una cosa curiosa che vorrei aggiungere: che è difficile poi per il datore di lavoro dare la prova di aver informato il dipendente. Io mi ricordo che già in tempi non sospetti, quindi 6-7 anni fa, molto prima della sentenza della Corte europea, noi consigliavamo alle aziende che ce lo chiedevano di dare, insieme alla busta paga che molte aziende danno anche tramite il sistema intranet o comunque via mail ai lavoratori, di fornire al dipendente le policy sull'uso dei device, quindi sui dispositivi aziendali. Per cui in quel modo il lavoratore non poteva dire di non aver letto le policy aziendali e quindi di non essere stato informato dal datore di lavoro, perché in processo poi nei giudizi capita spesso che il datore di lavoro non riesca a fornire la prova di aver informato correttamente il dipendente, proprio come adesso sta dicendo la Corte europea dei diritti dell'uomo. Grazie avvocato Marraffino. E allora siamo arrivati in chiusura di questa puntata. Grazie come sempre a chi ha reso possibile tutto questo, cioè a Giulia Lauricella e Marco Lombardo, assistenti preziosi per Due di Denari. E poi grazie anche a Peter Bescapè. Non scrivere niente di sconveniente, mi raccomando, Peter, sul tuo profilo Facebook, e specialmente nei miei riguardi, che non sarebbe carino. Peter Bescapè in regia. Naturalmente Due di Denari torna domani e saremo questa volta in due. Buona giornata.